verso il futuro e oltre. Scuola, università, ITS. Dove e come prepararsi alle sfide di domani. Di Maria Piera Ceci. Nuova puntata di Verso il futuro e oltre, dedicata allo studio all'estero. Sul sito radio24.it potete trovare le altre puntate, quella sul quarto anno all'estero, quindi parliamo di ragazzi delle superiori, e quella sulle università estere, verso le quali guardano ormai molti nostri studenti per tante ragioni. Vi abbiamo raccontato nel podcast del 13 febbraio quali sono gli atenei esteri migliori, vi abbiamo raccontato alcune storie. In questo podcast parliamo invece di altri percorsi formativi che consentono di studiare all'estero per periodi più o meno brevi. Ne parliamo con Francesca Barbieri del Sole 24 Ore, che si è occupata di questo focus sulla guida del Sole 24 Ore proprio oggi in edicola con il quotidiano, una guida che raccoglie tutte le informazioni utili e consigli per chi guardi allo studio all'estero con interesse, per arricchire il curriculum, per imparare bene una lingua. Ciao Francesca. Ciao Piera. Allora, altre forme dunque per studiare all'estero. Cominciamo dalle summer school. Cosa sono? Le summer school sono dei corsi estivi, come si può intuire, che le università italiane organizzano in Italia, ma anche all'estero, in partnership con università straniere. Quindi sono dei periodi di tempo limitati che possono andare da 4-5 giorni fino a 2 settimane, e durante questi periodi i ragazzi possono recarsi all'estero ad approfondire determinate discipline. Quindi fare anche degli esami, oppure gli esami poi vengono sostenuti quando si rientra? Ma in realtà sono, diciamo, dei percorsi che ti consentono generalmente di avere qualche credito formativo, quindi utile poi a fine del bilancio complessivo. E non sono previsti particolari esami, ma ci sono appunto sia delle lezioni e soprattutto delle parti pratiche che mettono un po' alla prova i ragazzi, che possono anche approfondire la conoscenza delle lingue. Della lingua, sicuramente. E poi ci sono i double degree, cioè le doppie lauree. Anche qui di che cosa stiamo parlando? Sì, le double degree sono un percorso molto più articolato, sono dei veri e propri titoli di studio che alla fine i ragazzi raggiungono, e la cosa interessante è che sono titoli doppi, come dice la parola stessa, cioè alla fine dei 3 anni o dei 2 anni di specialistica si ottiene una laurea che è riconosciuta in Italia ma anche in uno o più paesi stranieri. E interessante il programma di questi corsi, perché oltre a studiare in Italia, generalmente il primo anno, poi sono previsti semestri o addirittura anni in università straniere, dove si va a studiare, si sostengono gli esami che poi vengono riconosciuti al rientro in Italia. Quindi insomma un percorso sicuramente un po' più impegnativo, ma che ti consente più o meno nello stesso tempo di avere in tasca 2 lauree che insomma fanno sicuramente curriculum. Sì, esattamente. L'offerta formativa negli ultimi anni si è moltiplicata, perché ormai ci sono una 60 di atenei che propongono double degree e i percorsi sono circa 650, quindi l'offerta è davvero ampia e riguarda soprattutto le lauree magistrali. Quindi chi fosse interessato a questo tipo di percorsi, nel momento in cui si voglia iscrivere ad un'università, ci sono gli open day, ci sono le giornate di orientamento, magari è una buona domanda anche quella da fare, no? Certo, in sede di orientamento. E poi consiglio di guardare i siti internet delle università, dove vengono anche pubblicati i bandi con le borse di studio a disposizione per i ragazzi che intraprendono questo tipo di percorso. Lo abbiamo sentito, 2 titoli di laurea in un solo corso di studi. Molti gli atenei italiani che offrono agli studenti questa possibilità. Fra questi c'è la LUIS, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli di Roma, che ha stipulato 27 accordi di doppia laurea. 123 gli studenti che stanno seguendo questo percorso. Alessandra Menga, 23 anni, di Foggia, è partita per Mosca nel 2018, al primo anno di laurea magistrale alla LUIS. Rientra a Roma, ora sta frequentando il secondo anno in relazioni internazionali, track di Global Studies. Sentiamo com'è andata a Mosca e perché ha deciso di intraprendere questo percorso. Innanzitutto perché in triennale io ho studiato anche in triennale alla LUIS in scienze politiche, ho studiato come seconda lingua, quindi prima inglese e seconda russo, e avevo già fatto uno scambio a Mosca tramite la LUIS, quindi un double degree lì mi sembrava un'opportunità perfetta per continuare e finire un percorso già iniziato, e anche perché un'opportunità di doppia laurea, onestamente non è una cosa che capita tutti i giorni e soprattutto non in un paese come la Russia. Poi in generale il sistema della doppia laurea ti offre tantissime opportunità, quindi... Che possibilità pensi che ti abbia dato, insomma, cosa ti abbia offerto in più la doppia laurea rispetto ai tuoi colleghi che hanno seguito un percorso tradizionale? Sicuramente rispetto a un percorso tradizionale ci sono differenze sia dal punto di vista puramente accademico che anche curriculare. Dal punto di vista accademico, perché sei comunque inserito in un sistema che è estremamente diverso rispetto a quello italiano, perché comunque diciamo che il nostro sistema accademico italiano dà più importanza alla preparazione, nel senso che abbiamo pochi esami per ogni semestre in cui ci concentriamo sul conoscere anche il dettaglio dell'esame. Invece a Mosca l'AMGIMO e il sistema internazionale in generale ti inseriscono in un sistema in cui diventa anche importante l'organizzazione, perché magari ti trovi a fare 8 esami in un semestre, come è capitato a me, e danno molto più importanza allo scritto. Quindi il double degree per me era un'opportunità di approfondire la mia preparazione sotto tutti i punti di vista, espanderla a 360 gradi, dando importanza alla produzione orale, che è qualcosa che in Italia curiamo moltissimo, e però allo stesso modo dando importanza anche alla produzione scritta. E poi in generale anche per quanto riguarda le esperienze lavorative, io lì ho avuto la possibilità di fare dei tirocini molto molto utili, che mi hanno aiutata anche poi a capire sempre di più quale fosse l'indirizzo all'interno delle relazioni internazionali in cui volessi orientarmi. Quindi un modo di studiare totalmente diverso, e dal punto di vista invece del rapporto con i professori, proprio dell'organizzazione dell'Ateneo, ci sono differenze fra quello di Mosca e quello italiano? Sì, sicuramente, per quanto comunque noi fossimo stati tantissimo seguiti all'interno dell'università, però non è la stessa cosa rispetto a lui. Magari lì l'approccio è un po' diverso, perché ci sono molti più studenti che hanno gli stessi problemi e quindi tendenzialmente sei leggermente meno ferito. Insomma, è un'esperienza anche di vita in qualche modo. Sì, sicuramente, anche perché poi la Russia non è un paese facile, e non parlano inglese, difficilmente parlare inglese all'interno dell'università, quindi anche la comunicazione diventa difficile. Hai dovuto mettere alla prova il tuo russo, insomma. Sì, esatto. Sì. Dove ti vedi alla fine del percorso accademico, quindi dove ti vedi dopo la laurea? In Italia, a Mosca? Questo non lo so, se devo essere onesta. In Italia dipenderà dalle opportunità che mi si presenteranno. All'estero è possibile, Mosca molto probabile, ma non escludo anche in generale altre capitali europee o non europee. Ti piacerebbe comunque tornare a Mosca? Anche magari solo per un periodo, però sì, quello mi piacerebbe, anche per riprendere un po' il russo, per fare altre esperienze lì. Comunque le esperienze di tirocinio che ho svolto lì sono state davvero molto formative. Pro e contro della doppia laurea? Allora, pro sicuramente avere un doppio titolo, confrontarsi con un paese completamente diverso, magari se come nel mio caso si riesce anche a svolgere un tirocinio all'estero, che è comunque un'esperienza internazionale aggiunta a un'esperienza accademica internazionale, diventa perfetto. Contro, sicuramente qualche pecca dal punto di vista organizzativo c'è, sia a livello burocratico, ma quello vabbè dipende anche tanto forse dal paese che ti ospita, ma anche semplicemente perché mettere due università a lavorare insieme è sempre molto difficile, quindi per quanto riescano bene a collaborare dal punto di vista organizzativo ci sarà sempre qualcosa di strano che non funziona perfettamente. Dove hai abitato quando sei stata a Mosca? Io sono stata in dormitorio, nel dormitorio fornito dall'AMGIMO, che è l'università russa, in stanza doppia con una ragazza russa, tra l'altro. L'Università Bocconi di Milano propone agli studenti 35 percorsi di doppia laurea, 2 a livello di laurea triennale e 33 a livello di laurea biennale di secondo livello nei 5 continenti. Giorgio Torriglia, 24 anni, di Monza, nel 2018 è partito per il Giappone, dove ha conseguito la laurea magistrale presso la Keio University di Tokyo alla fine del corso Master of Economics. In tasca ha però anche la laurea magistrale in Bocconi a conclusione del Master of Science in Economics and Social Science. Ora sta facendo uno stage, ma confida di trovare presto un lavoro vero, retribuito. Allora sentiamo il racconto di Giorgio. Dunque, è un programma di scambio universitario un po' particolare, non è il semplice semestre che si fa in un'università ospitante, ma è un programma più strutturato che consente agli studenti che ne fanno parte di prendere due lauree da due istituzioni diverse. Quindi io ho preso ufficialmente la laurea della magistrale della Bocconi e allo stesso tempo ho preso anche la laurea dall'Università Keio di Tokyo, che ha la stessa valenza, quindi anche lì una magistrale in economia, pur avendo fatto solo un anno in Bocconi, il primo dei due, e il secondo anno alla Keio. Insomma, la mole di lavoro è abbastanza intensa perché bisogna completare tutto il piano di studi sia della Bocconi sia dell'Università Keio, ovviamente potendo anche però convertire alcuni esami dall'università all'altra. Quindi, perché a un certo punto hai deciso di intraprendere questo percorso? Cioè, perché hai deciso dopo il primo anno di magistrale in Bocconi di avvalerti di questa possibilità che ti offriva il tuo Ateneo? Allora, dunque, in realtà è un'opportunità che viene proposta quasi subito, nel senso che il bando di iscrizioni parte già intorno al mese di novembre del primo anno, quindi 2 mesi dopo l'inizio dell'università, quindi bisogna pensarci un po' rapidamente perché sennò si perde l'opportunità. Io, iniziata la magistrale, mi sono reso conto che era un corso davvero interessante, ma vedendo questa opportunità ho pensato che potesse ampliare le mie le mie conoscenze ed essere anche riconosciuta ovviamente sul mio curriculum per la mia futura carriera professionale e anche però come insomma una crescita personale, perché ero molto entusiasta dall'idea di andare in un paese così diverso, così lontano, che non conoscevo bene ma che da sempre mi aveva insomma colpito, cioè il Giappone. Perché hai scelto il Giappone? Un tuo interesse personale allora, per questo paese, ma poi E poi anche perché allora l'università Keio è un'università riconosciuta insomma storica di Tokyo, con una ottima reputazione, e soprattutto l'idea di prendere una laurea da un'istituzione così importante in Asia mi ha fatto pensare che insomma un possibile percorso professionale in futuro nel continente asiatico, che è tra tutti il continente sicuramente più interessante, più stimolante al momento, più dinamico, diciamo, più dinamico e in crescita, devo dire che ho anche valutato questa cosa, cioè avere un titolo di studio dall'università giapponese avrebbe potuto aprirmi tanti sbocchi anche in quella parte del mondo. Perché tu ora che cosa stai facendo? Insomma, ora che ti sei buttato sul mercato del lavoro perché sei laureato, sta servendo questa esperienza? Cioè vedi che nel tuo curriculum, quando vedono il tuo curriculum, questa cosa salta all'occhio e risulta interessante? Sì. Le conversazioni che ho avuto con alcuni recruiters o comunque membri di HR di varie aziende sono tutti rimasti molto colpiti ed entusiasti di questa cosa, di questo elemento nel mio curriculum. Sì. Senti Giorgio, com'è stato invece studiare lì? Cioè quali sono le differenze sostanziali? Non solo, non sto parlando di vita quotidiana, ma sto parlando di studio e di vita universitaria. Certo. Cioè qual è la differenza maggiore che hai colto? Allora, sono tante le differenze, è un sistema universitario molto, molto diverso. Quello che posso dire è che la mole di studio per superare gli esami è decisamente inferiore rispetto a quella delle università italiane, soprattutto la Bocconi, perché i ritmi sono sicuramente sostenuti e intensi. La cosa che cambia è che quindi magari c'è meno studio e più facilità nel superare gli esami con delle buone votazioni, ma molto più tempo è previsto per dedicarsi alla ricerca personale, perché alla ricerca per la tesi o per i lavori che fai autonomamente. Questo si spiega perché gli studenti nella facoltà di economia della Keio erano decisamente inferiori rispetto a quelli nelle università italiane, soprattutto rispetto alla Bocconi. I professori quindi hanno molto più tempo da dedicare agli studenti e si fanno sessioni anche quasi settimanali di approfondimento della propria ricerca. Quindi la differenza è che si studia un po' meno. Si studia in maniera diversa perché c'è più tempo per la ricerca e un maggior rapporto con il professore perché... Sì, molto più intenso, loro sono davvero disponibili ad aiutarti, a mostrarti cose che magari non si vedono neanche nei corsi avanzati dell'università italiana, però se insomma riesci ad instaurare un buon rapporto con i professori che ti fanno da tutor, puoi davvero imparare tantissimo, senza però essere valutato con degli esami così tanto tosti come spesso accade qua. Studiare all'estero, come fare, come districarsi fra i vari programmi. Le altre puntate del podcast dedicate a questo tema le trovate su radio24.it nella sezione podcast. Oggi, 20 febbraio, in edicola trovate la guida del Sole 24 Ore con tutte le informazioni utili per chi voglia capire come fare per studiare fuori dall'Italia, sia che si tratti di ragazzi delle superiori che a livello universitario. Un saluto da Maria Piera Ceci.